Affida una lacrima lento e fa che la porti da me. Il vento mi ha detto sta attento, la tua bella non pensa più a te. Affida una lacrima al vento e nel cielo per me brillerà, e con una pioggia d'argento il tuo amore mi riporterà. Il vento non mi vuole più parlare di te, piange però non mi vuol dire perché, ma indovino tristi cose scritte con le spine delle rose. Affida una lacrima al vento, vedrai che di gioia ballerà, da te volerà e in un momento dei miei baci ti coprirà. Affida una lacrima al vento e nel deserto un fiore spunterà, sarà un miraggio, lo sento, ma sarà bello e ci credo già. Affida una lacrima al vento e fa che la porti da me. Il vento mi ha detto sta attento, la tua bella non pensa più a te. La tua bella non pensa più a te. La tua bella non pensa più a te.